Il capo di discesa dell'antenna, no? Il capo di discesa dell'antenna, l'attacchi dove c'è scritto antenna rosmetro. Ok? Al rosmetro, l'antenna del rosmetro. La scritta del rosmetro lo attacchi ad antenna lineare, ok? All'antenna del, al connettore dell'antenna del lineare. La scritta del lineare lo attacchi al baracchino. Io sto facendo così, ho attaccato, allora la discesa del baracchino l'ho attaccata all'amplificatore, poi dall'amplificatore ho preso il capo, quello che va all'antenna, l'ho attaccata lì, l'ho attaccata a rosmetro, però ho visto che non mi ha misurato bene, forse è troppo piccolino come cosa, c'è un rosmetrino, c'è... Aspetti, faccio un disegnino, ti faccio una foto e te la mando, riprendi Antonio Regetto. Sì, sono qui, fatti 10 minuti e poi vado a preparare la cena, che anche stanotte purtroppo si mangia. E beh, poi purtroppo bisogna mangiare. Vabbè, adesso sono fuori, è la stamattina alle 8, che è fuori. No, io ho già mangiato, adesso vado a prendermi il tram, guarda, se ci siete dopo, bene, se dopo giù per voi. Davvero, perché io, davvero io. E dati, fatela a piedi. Fai fresco tu, vabbè. Passa domani, Antu. Così ti prendi il tablet. Domani sono a Olbia. No, domani mattina presto devo andare a Olbia. Tu eri in ferie, a riposo, a Olbia devi andare. Sì, no, devo andare a Olbia per accompagnare un amico che me l'ha chiesto, deve fare una visita. No, sono in ferie, sì, no, sono in ferie forzate. No, ma qualche lavoretto ce l'ho per questa settimana. Però devo andare domani mattina a Olbia a accompagnare questo amico che mi ha detto che non se la sente a guidare perché ha gli attacchi di panico. Ho capito, aggiungami. Ehi, allora, ci sentiamo dopo, io vado a prendermi il tram. Ciao. Guarda che te l'ho mandato, Anto, ciao Logariere. Ma dimmi tu che mi ha regolato, guarda da papposa che si posa la iatta. Come l'ho collegato io? Guarda, te ne vai, ho ascoltato l'audio tu, Anto, mi hai fatto abbassare il cazzo la radio, adesso te lo rimetto com'era, no, va benissimo, il cane è morto. Ma vai, che sei altissimo, che non te ne fai niente. Vai, cazzo, ma dove mi hai detto, Gervain? Dov'è, dove sei? Abbassati un po'. Vai, abbassati tu, adesso lo rimetto com'era, anzi, lo rimetto a due, anziché a uno, cazzo. Varia, Oh, ma comunque quello della portante poi è sparito. Beh, e non continui. Non continui, io prendo la macchina e vado sotto casa sua. Anche se lontano da qua, mi. Ma secondo me ce l'aveva solo con una persona. Sì, vabbè, lui può fare quello che le piace. Di volte quando ci sono io non la metto a portante, perché tanto l'abbiamo già scamato. Capito? E non va bene. Ma perché, cioè, togliamoci la testa. Cazzo, che se uno, io ce l'ho con Antonio Riserva. Ok, metto la portante quando sta parlando a Antonio Riserva, io ritengo tutto qua ce l'ho. Stavamo in 5, in 6, stavamo così bene, vedendo, scherzando, e dico, Guglione ci mette a mettere la portante, ma di cosa stiamo parlando tu? Cioè, ora che uno deve fare, se io c'ho un problema con uno, o lo elimino del tutto, non ci parlo più, oppure lo affronto, punto e basta, capito? Cosa questa azione è importante, nascondersi dietro la portante, non va bene. Perché non siamo più nell'era di 30 anni fa, ormai con la tecnologia che c'è, non c'entra a fare, basta che io abbia la direttiva, gira, tu sì, non vedo dove vanno, e lo sai come funziona tu. Sei handicappato. Vabbè, anche 30 anni fa era così, claro, le direttive esistevano, li sgamavano lo stesso, li inseguivano con le macchine, li intercettavano, ma sono stronzate, perché se uno ha un problema con una persona, va e lo dice a quella persona, punto e basta. Lo so, però c'è una persona molto molto più avanzata sicuramente di me, ok, che ha delle strumentazioni molto sofisticate, a me mi ha comunicato a stretto giro, ok, per telefono, che la portante è lì, punto e basta, io mi fido perché è una persona validissima, è una persona che ha le palle, aspetto, e quindi mi fido, anche perché i segnali coincidono, e quindi basta, cioè è ora di finirla. Se uno c'è qualcosa con qualcuno, va e glielo dice in faccia, altrimenti si perde, cioè cosa di Nafuti, perché disturbi, disturbi anche gli altri, disturbi anche gli altri, capito? Ecco perché mi sono incazzato, se no a me non me Nafuti nulla, non è che mi interessi più di tanto, io giro canale, spengo, me ne vado, non me Nafuti nulla, però come è ben visto, quando ho detto altona, boh, non ne sa più. C'è un handicappato, deve essere. Sì, sì, va bene, dai, dai che io vi saluto che vado a preparare. Ciao Claudio, ciao Antonio, eventuali ascoltoni e tante cose. Un abbraccio, ti penso sempre. Anch'io Antonio, un abbraccio grande grande e ti penso sempre, capito? Se poi ti vuoi disfare di quella radio che c'è dentro l'armadio, dimmelo, eh. Vengo adesso, ti risolvi subito, ta ta ta ta ta, e me la porto lì. No, no, per il momento non mi dispone. Lo sai che questo figlio compro, vendo, scambio. Guardi, una busta piena di denaro, una busta piena, ma gli vendo più tutto. Però non lo so cosa fare, boh. Se investire, reinvestire, non lo so, boh. Ci sto pensando, va. No, mettimi da un'altra parte, e poi ce lo uso io. Sì, vintage, ragazzi. No, no, Antonio, è molto più se viene vintage, lo comprare una radio seria, a parte gli scherzi. Sì, te ne lascio una parte. Sì, sì, è una borsa grande. Perché ce l'ho piccola? Una borsa grande, vedi, e poi già ci arrangiamo. Antonio, riserva, non ridere, cane morto. Sì, vabbè, vi sto salutando, ciao, che devo andare a preparare, se no non ceniamo stanotte, già che a pranzo hanno mangiato così. Ciao Tino, un abbraccio anche a te. Addirittura, avete mangiato così, al volo. Sì, lo sai, no, come funziona. O in piedi? No, no, proprio al volo, perché stavamo mangiando, eravamo in giro, stavamo mangiando, l'hanno chiamato a prendere al lavoro e quindi abbiamo mangiato al volo. Va bene, Antonio, ti lascio andare. Ciao, ciao, un abbraccio a te, a chi sei tu, niente, divertito, va. Ciao, ciao, vi abbraccio tutti, siete nel mio cuore. Antonio, ma nella borsa piccola, non nella grande. Non hai capito? Ma è giusto, ti girare. Va bene, dai. Ehi, avanti, Tino. Sono un tocco e fuggio, infatti sono dovuto andare a prendere la gabbiera che era fuori con degli amici, adesso sono entrato, poi anche io fra un po' non mancherò a mettere il petto in, sopra la banca. Io ne faccio 8:30, stacco tutto, 25, 10 minuti, 15 minuti, no, stiamo facendo un bel piacere stasera, eravamo anche in tanti. Per come stava importante, niente, c'eravamo l'azione, mamma mia, di fastidio, cazzo, boh. Alla fine ha giumulato tutto, ma poi è giunta la trappata e mi ha detto lì, ah così è, va bene, vuol dire ci comporteremo di conseguenza, non c'è problema. Avanti, bombolo, hai capito quello schema che ti ho mandato? Ti ho fatto lo schemino, quello è lo schemino, così devi attaccare. Sì, sì, l'ho anche fatto, l'ho anche fatto. Sì, l'ho attaccato così, proprio come tu mi hai mandato lo schemino. L'ho attaccato proprio così. Comunque, riguarda la portante, le vasse che sono handicappate in Chivi, le che sono dirette notte a tradire, chi, mi faccia nulla, a fine se sta un cazzo non mi faceva niente. Handicappato, comunque cra, se mi vuoi, se c'è qualche baracchinetto mezzo vintage così, portalo qua che lo piazzo, dici si scoppia non scoppia. No, non è un baracchino, io voglio gassone, io diciamo gassone, guarda, gli ho dato 8 a Gianni Capri 2, 6 gli ho dato a Roberto Quadrato e mi è rimasto il dati, di Noite base, tutti base, il dati, di Noite e il Precipice sono base, basta, poi c'ho l'airbag sul veicolare perché è un regalo un carissimo che non c'è più, non c'è più in Angelo di Alghero, e basta, e boh, dalla 48, quindi sono andato all'armadio, e boh, basta. Ho dato tutto al tuo, troppe radio. Meglio poche funzionanti, almeno da usare tutti i santi giorni, vai ti. Così, no, io sinceramente non è che me ne frega più di tanto, di averne tantissime. Mi piace provarle, tanto è vero che tu sai benissimo che vado, prendo, rimetto, rifaccio, ma non ho... anche quello ho mollato un po', perché sembra così, ma è anche un gravai, non è che vada poi così tanto bene. Le provo direttamente se voglio, ma quando le posso provare non c'è nessuno, quindi niente di particolare, mettengo quelle che ho, mi vanno benissimo e quando ne voglio accendo, quando non ne voglio le spolvero. Vai Antonio. Capo, se l'avrei saputo te l'avrei comprata io qualcuna. Capo, ho mai tuba. A me? Cosa? Cos'hai detto? Detto che ce la, non lo sapevo, se no te l'abbia comprata io qualcheduna. Guarda, Antonio, comprare è una frase molto, molto grande per me. Perché io l'ho regalata, nessuno ha comprato niente qua. Una sola mi sembra l'ho venduta. Una solo, ma le altre le ho tutte regalate perché a persone che con me trattano bene, ci scambiamo tantissime cortesie, vedi già mi capri due che è da elogiare per conto mio perché mi ha sempre dato una mano in queste radio perché trovare i pezzi è molto molto difficile, io avevo un inuit che il frontalino faceva schifo, me l'ha procurato, Luca me l'ha fatto, l'ho ripiato stamattina e da vetrina, ha fatto un lavoro veramente alla grande, è uscita una bellissima radio, nuova. Altre volte ci siamo scambiati, appunto ho avuto problemi col DAC per trovare il valvolo e me li ha trovati lui, quindi queste per me sono persone che valgono, persone da elogiare, capito? La stessa cosa con Roberto, quando gli ho chiesto qualcosa, o per la macchina, o per la moto, o per qualsiasi tipo di cosa, si è sempre fatto in quattro, quindi anche io contraccambio così, non c'è problema, contraccambio così, quando non è mi dà una mano, nel bisogno, io chiedo quant'è, niente, allora questo è il tuo, e contraccambio così. Ah, capa, vabbè. Pensavo che stavi vendendo, se non te l'avevi comprato due, qualche d'uno. Ho capito, va. No, quelle che ho oramai non escono più. Il DAC non esce da qua, manco se me lo pagano a prezzo d'oro. Infatti ne ho avuto tante, ma non lo do. L'Inuit, l'abbiamo rifatto a nuovo completamente, perché è veramente da vetrina. Già ti ho mandato la foto, ti del frontalino, ma ha fatto un lavoro alla grande. Infatti mandare i vinili da Luca, ma lascia il tuo cazzo tutto a pezzo, ho dovuto fare, però ho fatto grande lavoro. Poi c'ho il precipizio in base e tre baracchini veicolati. Il resto, HF, V e U, buon fili di giochi, vai ti. Anche a me così metti, mi piace provarli e poi metterli dentro l'armadio, però quando lo tolgo per provare, deve essere funzionante, se no mi incazzo, vai. Sì, no, vabbè, ma poi ti ripeto, avevo ti ricordi Lafayette, il modello base, adesso non ricordo la sigla, ho dato Walter, provato con vari microfoni, andava benissimo, però è troppo grande, è un vintage, che se mi metto a metterli qua ci vuole una stanza solo per loro, quindi non mi interessa. Ogni tanto vado, lo prendo, ne metto un altro, ma sai com'è, non con una roba tua sei sempre prova, riprovo, ma niente di particolare, ecco, non c'è problema. Mi tratto quello che ho e va bene uguale. Sì, infatti tu c'hai anche meno posto di me, perché ce li hai lì, io sai, c'è la stanza mia, quindi però c'erano troppe, cioè non potevo manco più aprire la finestra, ma si incazzava, volevo vedere quando tiravi quei vetri, domani, perché io non potevo passare dietro, tutto pieno di cavi, le due basi a L, adesso non c'è più niente, la stanza è vuota, una base attaccata al muro e boh, tutta la stanza è libera, perché ne avevo troppe, basta, finito. No, non fa, capito? Non fa, quando so sono troppe, è un'esagerazione, e quindi ho fatto così anche tu, capito? Ho le cose essenziali che mi servono, dove posso fare sia radioamatore che CB, e boh, quattro radio è più che sufficiente, un HF, questo qua che sto trasmettendo per quanto riguarda la 27, la linea completa del Kimball, e poi un V e un base non veicolare, io veicolare non ne voglio, base, boh. Finito. E capa, vabbè, ma io qualcuno così stavo cercando anche a poco prezzo, giusto per avere una radio in più, però c'è, cioè, vabbè, non fa niente, prenderò quello più bello, ma era giusto per averla così, una radio in più, me, capito? Da chi non vuole più, non voglio più nulla, mi sono rimaste queste due e basta, è quello che ho sempre avuto. Scusate, che mi devo allontanare dalla radio, vi lascio il vostro consiglio che devo preparare e quindi devo venire chiaro. Cercherò più tardi se ci siete, sono paziente, a domani. Ciao T, un abbraccio, saluto a casa, se coincide a dopo, altrimenti a domani, vai Antonio. Ah T, ce la risentiamo alle prossimine. Ok. Ehi, acla. Così. Avevo tanta roba, anni fa avevo tanta roba, avevo due radio, cazzo, con una bella differenza. Lo so, anche tu avevi belle radio, le vedi lì, adesso sei a casa tua, ti avresti fatto un mobilettino vicino al letto, te l'avresti messo, una sopra, ti avresti fatto una piccola cosettina, un mobiletto, come ha fatto Gianni, ordinato, capito? Io purtroppo c'ho la stanza, e questa stanza stava diventando un casino. Ordinata, per carità, però c'era tanta roba. Non ce la facevo più a girarmi, soprattutto con le basi, perché le basi sono grandi, erano completamente piene. Ho detto, boh, basta. Ho chiuso gli occhi quest'anno, ha girato tutto in una lucca, flip, ho detto, lui, aiuto. Ma andiamo, grazie a Dio abbiamo venduto un po' di roba e stiamo ancora vendendo, non so, mai aspettato. Non so se è partita la T230, oggi la correttore della Kenwood, che ha comprato un radioamatore a occhi chiusi, perché sono strumenti professionali seri, e 780 sono state un po' di offerte, adesso vediamo la chiusura, 756 è partito al volo, con display da sostituire, ma è partito al volo, prefaccio, le antenne e il rotore partito al volo. Adesso ho altre due cose che sto vedendo, sempre VHF e VHF, perché anche io ne ho quattro, due devono andare via, una già in partenza, penso che sia quasi venduta, ma a parte anche l'altra ne tengo solo quelle due. Poi devo fare un po' di pulizia negli armadi, nell'armadio in alto, perché ci sono bei microfoni, capito? Bei microfoni, veicolari e balle varie, quindi devo fare piazza pulita, tanto. E ti dico che ho recuperato già un bel gruppoletto, ma bello, bello, già da poter comprare un HF serio, grande, di ultima generazione, ma sto contando sino a 10, credimi. Capo, fai bene. Se è così, fai bene, hai fatto bene a eliminare tanta roba, tanto da anni va lì. Bisogna tenere le cose essenziali, bisogna tenere basta. E la verità qua, se Dio ci vuole, qualche radio più bella e qualche cosa così in più e basta, poi non metterò più niente. Perché mi va bene così, mi va bene, mi sono rimasti questi due apparecchi a me e basta, meno male che mi sono godino due vici, se no non avevo nulla ai nonchi, niente. E questo qua non ti tocca ghiccio, ma mi ha regalato una bacione e non si tocca. Non sono, ma infatti, la realtà è quella. Io alla fine te l'ho detto, ho ceduto, non volevo, però ho ceduto perché alla fine ho detto basta, cioè non si può aprire questa porta, ero sempre tutti i giorni che mi dicevo con mia moglie, per perché non poteva cambiare il tendino della finestra, lo cambiavo io, pulirmi il vetro io, lo volgivo io, quando lavoravo per terra stavo sempre a voce, attenta c'è un cavi lì, attenta lì, a te non passa la strappa vedi che mi tiri i cavi, alla fine gli ho detto buh, cazzo, ma ve l'avremo, buh, cazzo tutto, se lo vedi adesso, sto benissimo, una base unica attaccata al muro, ci sono le radio essenziali, gli alimentatori sono sotto la base, come erano prima, e boh, non c'è altro, finito. Sto veramente molto molto meglio, molto meglio, capito? Però io, vabbè, io purtroppo sono così, vengo al tuo ricompro, dico sempre, no, al tuo ricompro, perché già con il gruppo letto sono sempre sui mail e sto controllando, vedendo. Già ne ho visto una di ultima generazione, usata, garantita, da Media Globo a buon prezzo, che mi piace tantissimo, della Gesù, che ho già avuto però non è la mia, praticamente l'ho provata ed è molto bella, e mi sta tentando molto, però sto contandoci a 10, perché alla fine dico, ma sì, compro questa radio e poi cazzo, la tengo accesa perché attività non la sto facendo. Alla fine non le volte, mi tengo i soldi da una parte e me ne investo per fare altro, capito? Per fare altro, anche per divertirmi, non me la fotti nulla, per divertirmi per i cazzi miei, però radio non lo so se ne compro altre. Sì, ti gumano di nini una buona e boh. Dico di ninni, una materiale buona, quello che devi usare, dove lo devi usare, basta, tanto vuoi tanta roba, o una di ultima generazione buona, e ti vendi qualche altra cosa che non ti serve, qualcosa devi fare. Ma oramai non è che la roba che non mi serviva, di vecchia l'ho già fatta tutta. Cazzo, ho dato il 440, che guarda, risparmio il 440 è come togliermi, a tagliarmi un braccio, però ho ceduto, basta, cioè, ne ho avuto 8, boh, finito. E prima che, perché è una radio molto molto complicata, cioè devi usare, tenere sempre accesa quella, agli, ma faccio il 430, che lo posso lasciare mesi e mesi spento, il 140 che è nuovo, lo posso lasciare spento tranquillamente, via, anche quella. Via, c'ho due amplificatori, uno per la 27 e un HF a valvole, ce ne ho due transistorizzati per la 27, c'ho 4 MBP5 di cui uno è testato 3 più uno è testato Kenwood, c'ho quello vabbè che ho dato a Roberto che sicuramente è da lamparsi da collezione perché mi ha detto Luca che non è messo bene bene. Ce ne ho altre due senza neanche essere col connettore dentro l'armadio, sempre il microfono da tavolo, quello originale della Precision da tavolo e poi un altro, ma lascia perdere tutto, lascia perdere, c'è un bel di roba che anche a cracco baratto la devo fare fuori perché devo svuotare l'armadio, capito? Sono cose che intanto non usi, le tieni lì per berletta, questo ce l'ho, questo ce l'ho, questo ce l'ho, quando lo ce l'hai, guarda, le radio così belle, tutte in fila, 4, che usi, come c'ho i 4 microfoni da tavolo, che sono 3 MC60 e un SM20 che tra l'altro l'ho dato a Luca perché sta facendo una prova su Licom, basta, boh, finito, cosa cazzo me ne vai di tutti i radio. Così è, no, la verità già andrà bene. Cioè, cavolo, a fine cosa ne fai tanta roba, tanto, oramai, ragazzo, va. E poi stai sempre prova, se mi scrivi, a fine tieni quello che devi tenere, basta, anzi, è anche più carina, meno roba, più funzionalità. Tanta la pepina, se ti sei volata a radio, cioè, trago un pareggio, cosa ne fai di tenere tanta roba? E infatti, io qualche cosa in più, ti sto dicendo, mi prenderò, c'è una cosa che mi piace, due cose che mi piacciono, che mi prenderò, poi basta, non prendo più niente, tanto, questa è cosa di buccia, che se vedo un mobile pieno prima. No, non conviene, assolutamente, se farò un'inversione aereo massiccio di ultima generazione, capito? In modo che elimino anche gli H2 e VU base e li metto in vendita, con quelli faccio VU e HF e 50 mega e basta, e con questa faccio la 27, boh, finito. Tanto non è vero più la pena, come che hanno vestito soldi, ma vestito un bel, ma senza presunzione, vestiti un bel. Non buttati, investiti, perché mi sono divertito, ho avuto quello che mi piaceva, va bene così, però non ho speso tanti soldi, non ci voglio più ricavare nel traino, anche perché non mi interessa fare attività come fanno gli altri allenatori, con tutto il rispetto, perché per fare allenatore bisogna avere il massimo rispetto per quelli che lo fanno. Io non ho quella capacità, non ho quella voglia, non mi interessa, quindi stando così al mio posto è inutile investire quattrini, sono solo quattrini buttati, tutto qua. Va bene Anto, io ti saluto e vado a cenare, ok? Se ci sei dopo cena mi faccio altre due chiacchiere, se no a domani, va bene? Ok qua, ce la risentiamo. Perché va, ma forse stanotte vado a letto più presto che sono vitracco. Dai, buonanotte a tutti e a tutti anche gli ascoltoni. Ciao ciao, buonanotte. Ciao ciao Antonio. Allora, buonanotte, riposati che ho lavorato e quindi già va bene così. Se coincide, a dopo, altrimenti a domani. Ciao. Ciao, ciao, non so più tra con me. Ma se continuano a offrire di noga, mamma mia. Ok, vai, ciao ciao. Ciao Antonio, non hai tuffa? Tu non sai come ti cadremo noi longhi. Allora, praticamente io scendo giù adesso mi faccio la doccia, attendo lo pure il domanno della cucina e mi sale il calore qua. Ah, così è. Vabbè, pronto. Prenditela una tuffetta, fai il sacrificio, anche una tuffa pelle, che qualcosa, libro, c'è cioè qualcosa che ti riscaldi bene la casa, perché quest'anno l'inverno è tosto, Gassi, chi si è abbiata, dammi le cose, ma vai io che attendi a che cosa ti incendia tutto, cioè, mica la casa è piccola, mi scalda subito, io dopo mio, adesso dopo mi faccio la doccia, attendo appena che si freddo, mi lascia un garone in occhio che si cade da Dio, si sta, ma si sta da Dio veramente, io te lo dimostro qua, cazzo 10 minuti che sei, non vi vuoi fare in occhio, ma già non ci accendo la stufa, è una casa che scalda subito. Perché è piccola, vabbè, no, io c'ho riscaldamento caldaia, infatti lì non si può ponere la mano, dobbiamo cercare una cosa, caldo, ci sono 23 metri, ci sta benissimo, dai, va bene, Anto, vado a cenare a frappè, ciao, un abbraccio. Ciao, ciao, ciao. Buonanotte a tutti, dai, che io vado, mi tringo con delle parti su questo racco, ciao ciao. Ciao ciao.